giovani, i giovani non sanno, i giovani non sanno cosa vogliono dalla vita, sti poveri coglioni. Tu vaglielo a spiegare che la vita non prende ordinazioni. Tu pure, che dicevi, pure che dicevi che volevi un mondo differente, che deficiente. Il mondo se ne fotte allegramente delle tue preferenze. Io invece come vedi sono un uomo adulto e responsabile. Che splendore. E faccio colazione, pranzo e cena con il male minore. Il male minore sancisce la fine delle ostilità. I giovani non sanno un accidente cosa sia il male maggiore. Beata ingenuità. D'altronde non ne sanno molto neanche quelli della mia età. Occorrerebbe nella vita un poco di memoria storica o di immaginazione. E allora sì che ci faremmo scudo con il male minore. Perché il male maggiore ritorna, il male maggiore aggredisce, il male maggiore rapisce, il male maggiore ti inghiotte, il male maggiore ti fotte, il male maggiore legittima, il male maggiore giustifica.